Incontri di Gianfranco Fabi. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Con la voce di Mercedes Sosa iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera, quanti si ascoltano, e buonasera Roberto Moncalvo. Buonasera a voi. Roberto Moncalvo è presidente della Codiretti, ha scelto questa canzone molto bella. Todo cambia, cambia tutto, sta cambiando tutto. Lei è anche un giovane presidente, il più giovane presidente della Codiretti. Che cosa pensa quando si parla di cambiamo tutto? Penso che stiamo vivendo una fase di cambiamento. Insomma, a me piace poco definirla di crisi in termini negativi. È una grande fase che attraverso la crisi credo ci dà grande opportunità di cambiare e porta con sé grandi sfide anche molto interessanti. Ecco, un cambiamento, lei anche nella sua breve ma intensa esperienza fino ad ora ha già fatto un cambiamento. Lei si è laureato in ingegneria dell'autoveicolo al Politecnico di Torino, pensava forse di entrare alla Fiat e poi ha scelto la via dei campi, come mai? Sì, devo dire che il cambiamento accompagna abbastanza la mia vita, insomma, da quando ho scelto il liceo con l'idea di fare l'ingegnere a quando mi sono laureato e poi ho scelto di fare l'agricoltore fino ad oggi, insomma, in cui ovviamente mi trovo a fare presidente di Coldiretti, che è un'opportunità magnifica, ma che ovviamente non era assolutamente né prevedibile né, come dire, né programmabile. Sì, era programmabile quando ho iniziato a fare l'agricoltore. Per me è stata una scelta di vita prima di tutto, perché ho studiato ingegneria d'autoveicolo. Per me era un mestiere bello, nel senso che mi occupavo di cose che mi piacevano, mi piaceva meno la vita quotidiana. Insomma. Certo. C'erano alcuni aspetti che non tornavano rispetto alle mie esigenze prima di tutto di uomo, di persona. E invece nell'agricoltura ho potuto trovare sia un mestiere che mi piace, ma sia soprattutto la possibilità di fare ogni giorno qualcosa che è in linea con quello che penso e con quello in cui credo. Ecco, comunque anche nell'agricoltura ci sono degli aspetti ingegneristici, sicuramente gli anni di formazione non sono stati anni inutili. No, assolutamente no, perché comunque mi hanno dato la possibilità di formarmi, di conoscere aspetti tecnici e anche di impostazione mentale, se vogliamo, che sono utili e necessari anche nella gestione di un'impresa, perché oggi fare l'agricoltore vuol dire gestire con tutte le complessità e le tecnicalità un'impresa a tutti gli effetti. Certo, e la sua impresa è anche costituita da una fattoria didattica. Sì, la mia è un'impresa molto piccola, insomma, che quindi ha reso particolarmente interessante anche l'idea di cambiare. Insomma, per me rimanere in agricoltura voleva dire necessariamente trasformare l'azienda, perché era una piccola realtà di 15 ettari alle porte di una grande città, che è Torino, ed era impensabile fare l'agricoltore in termini tradizionali. Quindi ho colto fin dall'inizio il concetto di multifunzionalità e quindi ho affiancato alla produzione tutta una serie di altre attività che vanno dalla trasformazione dei prodotti in azienda, alla fattoria didattica, appunto, all'agricoltura sociale. E anche a un punto vendita in, come dire, a chilometro zero, come si dice adesso. Sì, io fin dall'inizio ho caratterizzato la mia, diciamo, rigenerazione dell'azienda appuntando tutto sul punto vendita aziendale e sul contatto quotidiano con i consumatori, perché se essere vicini alla città è negativo dal punto di vista della possibilità di avere molta terra a disposizione, dal punto di vista del frazionamento, avere tante persone comunque vicine all'azienda è anche un lato, ha un aspetto positivo che ho cercato di cogliere fin dall'inizio. E come è avvenuto poi la scelta di impegnarsi anche, diciamo così, in politica? Devo dire che la scelta di Coldiretti mi ha accompagnato. Per la verità, Coldiretti accompagna in qualche modo l'azienda agricola che oggi gestisco con mia sorella e con alcuni collaboratori che prima gestiva mia mamma e prima ancora mio nonno materno. Coldiretti ha sempre fatto parte in qualche modo della nostra vita, nel senso che siamo sempre stati associati Coldiretti. Io ho conosciuto Coldiretti quando nell'adolescenza, insomma, avevo partecipato ad alcune attività che i giovani di Coldiretti facevano di animazione e di formazione per i giovani imprenditori e per i figli di imprenditori. Avevo partecipato trovandoci curiosità, ma non mi sembrava ancora possibile, insomma, trasferire quei concetti in un qualcosa di mio, per la situazione che c'era nella mia azienda, nell'azienda agricola di famiglia. Invece poi eccoci qua. Quindi ha iniziato appunto anche questa attività di presidente di un'associazione che ha una grande tradizione, però che è anche molto cambiata. Ricordiamo, la Coldiretti era nota forse più per il suo collateralismo con la Democrazia Cristiana negli anni del dopoguerra, con la lunga presidenza di Paolo Bonomi. Ecco, come può definire adesso la Coldiretti, magari facendo un riferimento al passato, com'è cambiata? La Coldiretti oggi è una grande forza sociale intanto, che e questo è forse ciò che è sempre rimasto, no? Se pensiamo alla Coldiretti di Bonomi, Coldiretti aveva un grande ruolo sociale in quel momento lì, di riscatto delle campagne, insomma, con tante battaglie non solo a difesa degli interessi degli agricoltori, ma anche con battaglie di natura sociale, dalle pensioni alla previdenza, insomma, e alla gestione previdenziale. Quindi quella era un'esperienza di grande forza sociale che oggi torna in una chiave nuova, oggi è sempre rimasta ed oggi viene agita in una chiave nuova, assolutamente equidistante dalla politica, ma fortemente legata ai consumatori. Ecco, questo legame con i consumatori, avete molte iniziative anche di, diciamo così, di formazione del consumatore, di presentazione dei prodotti, di modo di far entrare una cultura del buon consumo. Diciamo che è stata la chiave di volta di Coldiretti, ma non solo delle attività di Coldiretti verso i consumatori, ma è figlia proprio di aver visto un vero e proprio nuovo modello di sviluppo che passa attraverso la consapevolezza che il futuro dell'agricoltura italiana passa da una coincidenza di interessi, se vogliamo, fra produttori e consumatori. I consumatori hanno bisogno di acquistare prodotti di qualità a un giusto prezzo e queste sono le caratteristiche dell'agricoltura italiana, che fa della distintività e della qualità, della sicurezza alimentare i propri elementi caratteristici. Quindi di lì è partito, attraverso proprio quello che a fine anni 90 chiamammo patto col consumatore, è partita una nuova fase di Coldiretti, ma una nuova fase dell'agricoltura italiana che attraverso la multifunzionalità oggi è arrivata ad essere quello che conosciamo. E quindi legame col consumatore, l'inizio delle iniziative di Campagna Amica che oggi sono un'esperienza fondamentale dal punto di vista sia numerico e quindi economico che anche di comunicazione. Questo anche per sollecitare un po' la grande distribuzione, il settore commerciale. Questo che è stato il nostro grande contributo per far conoscere ai consumatori quotidianamente la bontà dei nostri prodotti, ma la qualità del nostro modello di sviluppo. C'è un'agricoltura che è fortemente legata ai territori e che fa della sostenibilità sociale, ambientale, la propria leva di sviluppo, quindi un'agricoltura che cresce mantenendo i territori e creando occasioni di sviluppo. Questa è stata la chiave, oggi si traduce in oltre 1500 mercati di Campagna Amica sul territorio nazionale che sono stati visitati nel 2013 da oltre 15 milioni di cittadini e si traduce in oltre 30.000 imprese che sono dentro il circuito di Campagna Amica anche con punti vendita diretta oltre che partecipando ai mercati di Campagna Amica, poi gli agriturismi, le fattorie didattiche, le aziende che fanno agricoltura sociale, quindi lavorano nel campo proprio della fornitura di servizi, ad esempio per le fasce più deboli della popolazione, penso agli agriasili, ai centri per gli anziani, ai centri estivi che molte aziende agricole stanno aprendo proprio questi giorni di giugno, certo, in cui sono finite le scuole. Ecco, quindi è un'organizzazione, diciamo, anche un certo punto di vista complessa, che ha tante attività finalizzate tutte un po' alla valorizzazione di un settore agricolo che forse negli anni, negli ultimi anni, era stato un po' dimenticato e messo in secondo piano. Incontri. Che io cambie no es extraño. Fino brillante de mano en mano su brillo. Ancora con la voce di Mercedes Soja e con Todo Cambia riprendiamo il nostro incontro con Roberto Moncalvo, presidente della Coldiretti. Abbiamo parlato nella prima parte della sua esperienza, nato come ingegnere nel settore automobilistico ma si è convertito rapidamente all'agricoltura, una piccola azienda in Piemonte, e adesso come presidente della Coldiretti ha il compito di rendere l'agricoltura qualcosa che sia ancora di moda. Forse il presidente Moncalvo Moncalvo l'agricoltura vuole tornare ad essere una protagonista, non un settore subalterno, un settore in fondo marginale? Beh, l'agricoltura e il cibo in qualche modo sono già al centro dell'attenzione quotidiana. Penso che ormai, insomma, tutti i media e in tutti i giornali parlano quotidianamente in qualche modo di temi collegati al cibo e quindi all'agricoltura e ai territori. Quindi questo è già un dato di fatto ed è figlio di come anche gli agricoltori hanno saputo rimettersi ad un dialogo continuo con i consumatori. In questo Col Diretti, con Campagna Amica, da ormai oltre 15 anni insomma sta lavorando a questo punto di vista. Oggi c'è una novità, insomma, grazie a questo percorso quotidiano e a questa attenzione che il cibo ha assunto proprio come settore strategico anche per un nuovo sviluppo anche della nostra economia, finalmente iniziano anche alcune realtà della grande distribuzione e dell'agroindustria a voler lavorare nella logica della verità e della trasparenza di un vero prodotto made in Italy, che quindi parte dalle campagne, dagli allevamenti italiani e arriva sullo scaffale della grande distribuzione, dando lavoro e creando opportunità di sviluppo sui territori. Quindi c'è un rapporto anche costruttivo, non solo conflittuale, con la grande distribuzione? C'è un... Allora, storicamente è chiaro che negli ultimi anni il dato vero è che il prezzo dei prodotti agricoli è calato, mentre quello al consumo è aumentato. E quindi c'è chi sta, come dire, a metà fra gli agricoltori e i consumatori, e quindi c'è l'agroindustria, c'è la grande distribuzione, in qualche modo non hanno contribuito a migliorare né la vita dei consumatori in termini di prezzo pagato né quella dei produttori in termini di valore riconosciuto. Oggi però, intorno al tema del vero made in Italy, e quindi di un legame vero con i territori e quindi di una promozione di quel made in Italy che parte dai nostri campi, dalle nostre stalle, c'è qualche realtà che inizia a lavorare in modo nuovo, proprio nella logica della trasparenza e della verità. Noi abbiamo creato da questo punto di vista proprio un marchio valoriale FAI, firmato dagli agricoltori italiani, che certifica l'origine italiana e agricola dei prodotti e che oggi arriva negli scaffali della grande distribuzione con quelle realtà che hanno scelto di lavorare con noi. Quindi ad un prezzo equo e con la garanzia di un prodotto veramente italiano dai campi fino allo scaffale arriviamo già con la pasta, con l'olio, con l'ortofrutta, insomma con tanti prodotti sempre crescenti anche per varietà, per dare una risposta anche a quei consumatori che non ce la fanno quotidianamente a recarsi in un mercato di Campagna Amica o direttamente nei punti vendita di Campagna Amica, ma hanno necessità ancora di acquistare, insomma, attraverso la grande distribuzione che oggi comunque, come dire, in qualche modo gestisce ancora il 70% del cibo. Ecco, è una delle vostre campagne sicuramente più ambiziose, anche quella di difendere il made in Italy all'estero contro la contraffazione. Dalla tutela del made in Italy all'estero, ma anche in Italia, passa sicuramente la traiettoria di futuro del nostro settore, ma proprio di una rinascita dei territori attraverso la produzione di cibo vero made in Italy. E questo è un tema che va affrontato difendendo i nostri prodotti all'estero, ma anche facendo una grande operazione di verità rispetto a quanto accade nel nostro paese. Ogni giorno, oggi, prodotto su tre di quello che viene venduto e lavorato come made in Italy in Italia in realtà proviene da materie prime provenienti dall'estero. E questo il consumatore non lo sa perché non c'è ancora una norma chiara sull'etichettatura per tutti i prodotti della filiera. Dietro questo inganno, dietro questa mancanza di trasparenza si perdono posti di lavoro. Questo sta capitando su tante filiere, ne cito uno su tutti, quella dei prosciutti, dove abbiamo due prosciutti su tre che sono venduti come made in Italy ma provenienti con cosce di maiale provenienti da paesi stranieri, e in questo caso solo nell'ultimo anno abbiamo perso oltre a 615.000 maiali allevati, abbiamo perso 8.000 posti di lavoro in Italia proprio per questa mancanza di trasparenza legata alla possibilità di marchiare made in Italy qualcosa che non è veramente made in Italy perché di fatto proviene da prodotto agricolo proveniente dall'estero. E quindi una battaglia anche per modificare le regole in fondo per proteggere meglio le produzioni italiane attraverso delle regole più chiare. Dobbiamo completare un sistema di regole chiaro, semplice, ma che tuteli la nostra produzione e la qualità e la distintività del prodotto made in Italy. Per questo anche la nostra battaglia da sempre sul tema degli OGM, insomma, che oltre a creare problemi di rischio ambientale e rischi per la salute, sono assolutamente contrari rispetto alla necessità nostra di essere fortemente distintivi rispetto alle nostre tradizioni e alla qualità dei nostri prodotti. Quindi questi sono temi certamente fondamentali da affrontare, unitamente unitamente alla necessità sicuramente di valorizzare ancora meglio il nostro sistema di controlli, che è il migliore al mondo, ma che, come dire, mentre ha una grande capacità di controllare ciò che accade nel nostro paese, non riesce ancora, perché insomma occorrono regole ancora più forti, la possibilità di controllare bene ciò che entra anche quotidianamente dai paesi terzi, insomma con la stessa efficacia. Noi abbiamo questo grande sistema di controlli come elemento da valorizzare e da potenziare ancora negli interessi dei consumatori e di tutti i produttori onesti. Ecco, di tutti i produttori, proprio a livello di produttori, vorrei introdurre il tema dei giovani. Si parla molto di possibilità di fare delle start-up, delle società che crescono, e ci si riferisce quasi esclusivamente alle società nell'alta tecnologia, nelle start-up, nelle telecomunicazioni, in internet e così via. È possibile parlare di start-up anche nel settore agricolo? Beh, certamente i giovani stanno guardando con un'attenzione forte al settore dell'agricoltura e del cibo made in Italy. In questi ultimi anni di crisi forte, ciò nonostante, sono nate oltre 50.000 imprese giovani in agricoltura che stanno lavorando tutte proprio sul tema della qualità, della distintività dei prodotti e anche con attività molto innovative che richiedono anche, come dire, competenze esterne che stanno offrendo la possibilità di creare posti di lavoro in agricoltura. Ma non è solo questo l'unico segnale, insomma abbiamo iscrizioni in continuo aumento negli istituti tecnici agrari, nelle facoltà di agrare, è un altro segnale forte quindi di attenzione rispetto al mondo. Quindi un'agricoltura che se da un lato può, diciamo, essere un'occasione di lavoro per chi vuole provare a creare una propria attività agricola, con tutte le difficoltà del caso, prima di tutto l'accesso alla terra e poi l'accesso al credito, d'altra parte lavorare in agricoltura oggi può anche voler dire andare a offrire la propria professionalità, le proprie competenze alle tante aziende agricole che oggi, investendo sulla qualità, sulla distintività delle nostre produzioni, hanno necessità anche di collaboratori e di professionalità anche nuove per il nostro settore. Quindi opportunità ce ne sono, non possiamo non concludere questo nostro dialogo con Roberto Moncalvo, presidente della Codiretti, guardando in avanti all'Expo 2015 che ha proprio nell'agricoltura il suo motivo, la sua motivazione principale. Come vede la Codiretti questa realtà, questa iniziativa, lasciando stare le difficoltà, ma pensando a un Expo che sia già qualcosa di concreto, di reale, che presenti appunto la realtà italiana? Potremmo dire che noi giustamente fino ad ora abbiamo prestato molta attenzione al contenitore e a fare in modo che chi gestisce la costruzione del contenitore garantisca trasparenza, questo è sacrosanto. Noi come Coldiretti abbiamo la volontà e la necessità di occuparci di contenuto, perché Expo 2015 è una grande opportunità per parlare non tanto e non solo della grande qualità dei nostri prodotti, ma per raccontare al mondo come questi prodotti sono figli di un modello di sviluppo che fa della sostenibilità ambientale, sociale ed economica anche una grande possibilità di futuro e di sviluppo dei territori, no? Siamo un'agricoltura che ha la capacità di creare una sorta di incrocio magico fra cibo, cultura, paesaggio, storia, tradizione, turismo. E questi sono elementi unici da valorizzare perché danno la possibilità ai territori di svilupparsi in modo sostenibile e nello stesso tempo danno la possibilità ai territori di creare occupazione attraverso la produzione di cibo e per il consumo interno e per l'esportazione. Ecco, in questa prospettiva quindi consumi più consapevoli, un rilancio del Made in Italy, possiamo dire magari della dieta mediterranea, non è un caso che l'Italia sia il paese più longevo, in cui c'è la speranza di vita maggiore, forse perché amiamo mangiare bene, ecco, senza esagerare, però il consumo consapevole, il consumo capace di rispettare il territorio e capace di avere delle cose, come si diceva una volta, genuine, può essere la carta vincente anche per i prossimi anni. È questo in fondo che può riassumere anche la politica della Coldiretti? Beh, sicuramente l'attenzione a un grande consumo, a un'azione verso un consumo consapevole, che quindi passa prima di tutto da una grande attenzione, un grande rispetto nei confronti dei cittadini consumatori, ai quali noi dobbiamo dare tutti gli strumenti per poter scegliere liberamente. Quindi di qui la nostra battaglia forte sulla tracciabilità, sull'etichettatura d'origine, insomma per fare in modo che i cittadini possano davvero sapere ogni giorno che cosa stanno acquistando e scegliere di conseguenza. Ecco, qualche iniziativa per le scuole forse ci vorrebbe. La scuola italiana ha molto da cambiare per essere più aperta anche alle nuove realtà, non solo alle nuove realtà ipertecnologiche, ma anche alle nuove realtà che sono un modo nuovo di guardare in fondo anche le tradizioni del passato più forti. Ma il mondo della scuola è sicuramente un mondo che può prestarsi a molte attività, dall'educazione alimentare ai tanti percorsi che noi facciamo, ad esempio con il progetto di educazione alla campagna amica, quindi la possibilità di visitare le nostre fattorie didattiche, le nostre aziende agricole per conoscere davvero e toccare con mano che cos'è l'agricoltura e da dove arriva il cibo che si mangia, ma poi le scuole possono essere anche un momento in cui quotidianamente si fa educazione alimentare, ad esempio anche attraverso il pasto. Quindi lavorare, ad esempio, perché come molti comuni finalmente iniziano a fare in Italia, a partire dal comune di Roma, a fare in modo che ci sia nei pasti forniti alle scuole, ai nostri bambini, ci sia cibo locale, cibo di proveniente dai territori, quindi legato in qualche modo alla stagionalità, alla qualità e alle nostre tradizioni, è ad esempio un altro elemento importante, perché attraverso il pasto, che è un'azione quotidiana che si fa nelle scuole, ci sia la possibilità anche in quel momento di creare un momento di educazione e di cultura. Anche dalle cose più semplici può nascere appunto una realtà più dinamica, più in fondo più rispondente anche alle esigenze di ogni persona e quindi anche alle esigenze di crescita della società. Grazie a Roberto Moncalvo di essere stato con noi questa sera. Grazie a voi. Grazie anche a Roberto Scaltritti in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona serata.